L'altro pianeta di Laura Bettini. Buonasera, ben ritrovati, una nuova puntata dell'Altro Pianeta nella quale parliamo di un evento che si è tenuto in settimana, ovvero Tutti Insieme per l'Ambiente, quindi l'assemblea annuale di Assoambiente, che però appunto ha anche una sua parte pubblica nella quale si discute molto apertamente di quelli che sono i problemi di questo settore. Di che settore stiamo parlando? Assoambiente è l'associazione imprese e servizi ambientali di Fise Confindustria, quindi rappresenta a livello nazionale, ma anche comunitario all'interno di Fise, le imprese che svolgono attività di igiene urbana, gestione di impianti per rifiuti urbani e speciali, attività di bonifica. Sono circa 130 aziende o forse anche di più. Buonasera a Elisabetta Perrotta, direttore di Assoambiente. Buonasera. Quante sono? 130 o anche di più le imprese? Il comparto è molto in evoluzione perché purtroppo la crisi sta anche plasmando l'assetto industriale, quindi sì, il numero, siamo un po' più di 130 aziende di dimensioni dalla grande azienda all'azienda medio piccola, che più delle altre caratterizza il nostro comparto industriale, ma che oggi più delle altre sta soffrendo della situazione economica e finanziaria che sta attraversando il nostro paese. Quindi purtroppo la crisi colpisce anche questo settore, anche se il problema è la questione dei rifiuti, insomma, è una questione che, crisi o non crisi, esiste sempre. Ah, certo, questo è un settore che, diciamo, la materia prima l'ha sempre a disposizione, anzi ultimamente, diciamo, sembra quasi impossibile pensare a una crisi del settore considerando le diffuse situazioni di emergenza che caratterizzano il nostro paese per quanto riguarda l'igiene ambientale. Sembra che di rifiuti, anzi, ne abbiamo più delle capacità imprenditoriali sul territorio. In realtà la situazione emergenziale, diciamo, non è strettamente correlata o direttamente proporzionale poi all'attività o alla presenza delle imprese sul territorio. Però appunto lei diceva prima, la crisi colpisce le aziende del settore. Sì. Che cosa diciamo manca per evitare poi, diciamo, che la crisi le colpisca? Perché comunque, come dicevamo, anche i rifiuti sono sempre presenti, anzi sono anche più di quanti non riusciamo a gestire in questo momento. Ah, certo. Dov'è il punto in cui si rompe questa catena? Diciamo che la necessità prima, in base anche a quanto emerso nell'incontro che abbiamo avuto Tutti Insieme per l'Ambiente, che ha rappresentato un momento di, senza, diciamo, ambire ad essere molto aulico come incontro, ma un incontro proprio di condivisione, di confronto tra soggetti che poi hanno un ruolo fondamentale in questo settore. Avevamo il presidente della VCP, abbiamo avuto il Ministero dell'Ambiente, abbiamo avuto il presidente di Legambiente, abbiamo avuto anche il segretario generale di CISL, quindi anche le rappresentanze sindacali in questo tavolo, anche perché Assoambiente ha concluso da poco anche il rinnovo del contratto con elementi molto importanti e significativi da quel punto di vista. Soggetti con i quali confrontarci e valutare effettivamente che cosa manca oggi sul territorio per evitare situazioni drammatiche e tristi poi per l'immagine che il nostro paese riesce poi a esportare in maniera molto facile, purtroppo, da questo punto di vista, poi nei confronti non solo dell'Europa ma anche degli altri paesi extraeuropei. Manca innanzitutto una pianificazione che consenta al nostro paese di guardare lontano per quanto riguarda la struttura e gli obiettivi che si vuole dare per quanto riguarda l'igiene ambientale e la gestione dei rifiuti, non solo l'igiene ambientale ma anche gestione dei rifiuti, le bonifiche. E questa visione di fatto consentirebbe non solo agli investimenti privati, perché oggi c'è una carenza anche da questo punto di vista, il continuo mutamento della norma del settore ha impedito di fatto, se guardiamo non solo alle continue modifiche per quanto riguarda gli incentivi alle rinnovabili, per quanto riguarda la normativa di riferimento, il decreto legislativo 152 del 2006, solo nell'arco di un anno sia i contributi sulle rinnovabili che soprattutto il decreto di riferimento, la norma di riferimento del settore, ha subito numerosissime modifiche, e questo non consente o non costituisce comunque un background idoneo per gli imprenditori per portare investimenti, propri capitali, e quindi riuscire poi a dare anche una soluzione tecnica valida per quanto riguarda la gestione dei rifiuti sul nostro territorio. Quindi un po' come dire la mancata pianificazione, il fatto che la normativa non sia stabile certa, impedisce poi di pianificare a sua volta. Esatto, perché poi c'è un altro elemento, oltre alla instabilità della norma, o comunque della variabilità che possiamo registrare della norma di riferimento, c'è un ulteriore elemento critico che è quella della interpretazione alla norma. Molto spesso un disposto normativo viene letto in maniera differente non solo dalle autorità locali a livello regionale o provinciale quando delegate nei momenti dell'autorizzazione, ma anche nei momenti del controllo. Certamente. Senta, vedevo nel comunicato che poi è uscito nel corso dell'assemblea, si parla anche della arretratezza del settore in Italia dovuto anche a quei motivi che lei diceva. Che cosa potremmo avere ma non abbiamo in Italia? Ah, caspita, questa è una bella domanda. È troppo complicata. L'instabilità, come le dicevo prima, è come primo risultato evidente è proprio la mancata industrializzazione del settore, mancati investimenti di capitali privati che intervengono su questo settore al fine di promuovere poi non solo gestioni ma anche procedimenti industriali molto più avanzati e in linea con quelle che sono poi i livelli richiesti anche dalla comunità europea. Industrializzazione cosa si intende per industrializzazione in questo industrializzazione settore? Industrializzazione vuol dire avere un comparto che si crea regole e ha una struttura in grado di rispondere in maniera più avanzata dal punto di vista tecnologico e gestionale a quelle che sono i requisiti europei ma comunque di sicurezza e di salvaguardia della tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori e dell'ambiente, non dimentichiamoci tutti e tre gli elementi. Quindi non una visione di gestione libera nel territorio, ma una gestione più certa e più all'avanguardia per quanto riguarda poi gli sviluppi della stessa sull'impatto che questo tipo di gestione ha sul territorio. Quindi anche di fare un sistema più ampio, meno frammentato, certo. Competitivo. Beh, questo anche già con la programmazione, con la pianificazione naturale, che quando c'è una visione emergono in maniera molto più chiara e precisa quelli che sono poi le esigenze, e quando ci sono delle esigenze si sviluppa imprenditoria e quindi è un meccanismo che va quasi a domino. Se si sviluppa un primo elemento è naturale che prosegue tutto il resto in maniera molto più virtuosa e anche di miglior approccio e di visibilità generale rispetto a quello che abbiamo adesso. Senta, uno dei temi che sapevo avreste affrontato era quello della TARES, la mitica TARES. Da questo punto di vista, che impressioni avete avuto, avendo avuto al vostro tavolo anche il ministro, quindi insomma una serie di persone che potevano dare qualche così lume sul futuro? Ma devo dire che dal punto di vista TARES quanti intervenuti non ci hanno dato quelle garanzie, ma anche perché è un discorso ancora molto aperto sullo sviluppo o l'arrivo ad una conclusione positiva sulla questione. Abbiamo però evidenziato, o meglio, è emersa una visione comune, quello sì, su quello che ci si aspetta dalla nuova TARES e soprattutto il Ministero dell'Ambiente ha in qualche modo evidenziato la necessità, che noi condividiamo assolutamente, di assicurare una completa autonomia e indipendenza del finanziamento del servizio della gestione dei rifiuti, anche per rispondere in maniera, sembra quasi che si guardi sempre all'Europa, però di fatto è un po' il nostro metro di paragone, quindi già il fatto di avere un'autonomia nella TARES per quanto riguarda il finanziamento del servizio di gestione rifiuti risponderebbe sempre di più a quello che è un principio europeo che oggi sta guidando la norma europea, che è quello del chi inquina paga. Avendo una voce a sé stante per la gestione dei rifiuti è naturale che noi riusciremo in maniera molto più rispettosa a seguire questo principio. Però ribadisco, sì, certezze non sono emerse dal tavolo, quindi non posso esprimermi in termini, avrei voluto, ma non posso esprimermi in termini più compiuti su questo elemento. Adesso aspetto. C'è anche tutto il ragionamento sul legare la TARES all'IMU, all'IVA. Ecco, questa è stata vista come criticità da tutti, assolutamente sì. Quindi questo perché sarebbe un peggioramento. Verrebbe meno questo elemento, esatto. E vedremo, perché qui solo il tempo ci potrà chiarire la situazione, purtroppo. purtroppo anche però questo è il tempo, certo. Non gioca a favore delle imprese, di chi lavora lì, quindi anche di coloro che sono impiegati presso certe aziende, no? Quindi... Certo, anche perché so che alcune regioni sembra si siano già comunque organizzate con la TARES così come oggi la conosciamo, quindi è naturale che più si attende, più si creano poi situazioni di disagio verso chi si è già organizzato, a vantaggio forse di chi non si è organizzato, però insomma è naturale che si creerà del disagio con l'attesa sul tema. Questo poi rientra un po' nel tema più generale della progettazione e visione del futuro. Certo, che poi è sempre lì. A conclusione di questo incontro, di questa assemblea, lei che conclusioni trae, insomma, come l'ha vista quest'anno, visto che è annuale poi insomma l'appuntamento? Quindi... Questo è, diciamo, è la nostra assemblea, sì, è la nostra assemblea annuale. Diciamo che tra le conclusioni che posso trarre è quello che ho registrato è un desiderio, un impegno e una volontà da parte di tutti i rappresentanti che hanno preso parte all'incontro di continuare questa collaborazione, questo scambio continuo, anche perché almeno dal punto di vista tecnico c'è una condivisione anche della visione nella soluzione dei problemi. Quindi io mi auspico, ma è quello che di base è poi emerso, che questa collaborazione, questo sentirsi, questo consultarsi, questo confrontarsi fra diverse istituzioni possa in qualche modo fornire anche al Paese un indirizzo ulteriore per uscire anche dalla situazione in cui ci troviamo in termini molto più veloci e diciamo sicuri per tutti. Sì, perché poi probabilmente ripartire, cercare di uscire dalla crisi, lavorando su questi che sono comunque problemi che dobbiamo affrontare, esatto, fa sì che si risolvano due situazioni, si risolve il problema dei rifiuti, delle aziende che lavorano in questo settore e quindi si fa rigirare l'economia in un senso positivo. Assolutamente, io non ho voluto toccare assolutamente in questa intervista un problema che di fatto non è stato, devo dire onestamente, non è stato toccato con voci diciamo specifiche ad hoc nell'incontro di ieri, che è quello del ritardo dei pagamenti. È naturale che tutta questa crescita, tutto questo sviluppo, tutta questa industrializzazione del settore può partire se si sana anche questa che ormai è una pecca che ci portiamo indietro e che il nostro settore vive in maniera molto drammatica ormai da anni. Questi primi mesi, ciò che il Ministero dell'Economia e Finanze ha reso noto poi i dati a riguardo, insomma i risultati non sono ancora positivi, ci sono primi segnali ma non sono ancora sufficienti, quindi quello che ci auguriamo è che oltre a supportarci per fornire una visione e soluzioni in materia ci sia anche la soluzione di questo problema che di fatto grava molto non solo sulle aziende ma anche sull'occupazione e sulla qualità del servizio che poi le aziende devono fornire a livello territoriale. Lei ha perfettamente ragione, ha fatto bene a ricordarlo. La ringrazio Elisabetta Perrotta, direttore di Assoambiente, per grazie essere stata con noi. Arrivederci e a risentirci magari prima del prossimo anno con buone notizie. Volentieri, grazie. Grazie.